in primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini, vediamo insieme nella prossima mezz'ora i quotidiani in edicola oggi, lo facciamo a partire dal Sole 24 Ore. I temi, come potete immaginare, sono principalmente due: parliamo di elezioni americane e di epidemia in Italia, ma troveremo anche altri spunti che cerchiamo di darvi, di presentarvi e di leggervi nei prossimi minuti. Dicevo, il Sole 24 Ore, l'apertura per l'appunto è una di quelle alternative generali strategiche, restino in Italia. Ci sarebbe un rischio strategico e di rilievo per l'interesse nazionale se Assicurazioni Generali fosse ceduta ad AXA, il colosso internazionale francese delle polizze. L'allarme è contenuto nella relazione del Copasir, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, sulla tutela degli asset finanziari nazionali. Ne leggiamo poi qualche passaggio appunto dalla prima del Sole 24 Ore, sulla quale poi cos'altro troviamo? Ristori bis, tasse rinviate per le attività chiuse, altro titolo di forte richiamo in prima pagina, dove troviamo gli Stati Uniti, Biden alla vittoria in mano, Trump insiste, le elezioni rubate. E poi l'approfondimento food, questa settimana non propriamente food, ma insomma siamo sempre nell'ambito dell'area agroalimentare. L'Italia è leader europeo nella produzione di biometano, che arriva appunto dai campi e viene spesso riutilizzato nei campi per i macchinari agricoli, per muovere i macchinari agricoli. E questa è la prima del Sole 24 Ore, vado a leggervi, poi ritorniamo sulla questione delle generali perché è molto interessante questo approfondimento. La Repubblica a tutta pagina, Biden assedia Trump, è avanti in quattro stati chiave con un margine che cresce di ora in ora. L'Homeland Security smentisce le accuse di frodi elettorali. Il presidente è sempre più isolato, non intendo mollare, dice, e ricorre alla Corte Suprema per fermare lo spoglio in Pennsylvania. La fotonotizia poi ci porta a Washington con una protesta contro Donald Trump che si è tenuta davanti alla Casa Bianca. Per quello che riguarda invece la situazione dell'epidemia in Italia, Repubblica, peggiorano i dati, rischiano 6 regioni e questo è un tema che si ritrova un po' su tutte le prime pagine. Il nuovo decreto ristori, gli aiuti raddoppiati, rinvio delle tasse, bonus babysitter da 1000 euro, ma appunto 6 regioni e una provincia autonoma rischiano di passare dal livello giallo a quello arancione con il conseguente inasprimento delle misure restrittive. Così Repubblica, andiamo al Corriere della Sera, apertura su Conte alle regioni, non torno indietro, l'intervista con il Premier, chi si sta opponendo ci porta a sbattere quasi 38.000 nuovi contagi. Le pagine dedicate a questo tema sono dalla 12 alla 21, quindi come vedete una fetta consistente del Corriere della Sera oggi è dedicato alla epidemia e alla intervista a Conte che andiamo a vedere tra pochissimo. Sempre dalla prima del Corriere della Sera, i discorsi da vincitori di Biden e Harris. Trump nega il sorpasso e dice io combatterò. Biden è un passo dalla Casa Bianca, Trump non accetta l'esito delle urne, minaccia la battaglia. E poi ancora ci ricorda il prima del Corriere della Sera che il CT Mancini, il CT della Nazionale, è positivo e asintomatico, tra l'altro nei giorni scorsi un po' nel bersaglio delle polemiche per un tweet che aveva mandato in cui insomma smorzava l'allarme rispetto al virus, all'esistenza di questo stesso virus, ora lui ne è vittima e quindi le cose sono un po' diverse. Dicevo, andiamo a vedere qualche passaggio dell'intervista al Presidente del Consiglio, Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini l'hanno condotta. Presidente, le regioni sono in rivolta, anche tanti cittadini, il meccanismo che ha diviso l'Italia in tre fasce di rischio va rivisto. Sono 6 mesi che l'Istituto Superiore di Sanità sta sperimentando insieme alle regioni questo meccanismo di monitoraggio. Le regioni lo alimentano con i dati inviati periodicamente, ne certificano i risultati attraverso i loro rappresentanti che fanno parte della cabina di regia, risponde Conte. I presidenti delle regioni rosse e arancioni, Fontana, Cirio, Spirlì, Musumeci, si sentono presi a schiaffi dal governo. Nessuno ha mai messo in discussione prima di adesso questo meccanismo e rifiutarlo significa portare il paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato. I cittadini della Lombardia, del Piemonte, della Val d'Aosta, della Calabria non ne trarrebbero nessun beneficio, senza contare l'ingiustizia di imporre lo stesso regime di misure che stiamo applicando alle regioni rosse anche a cittadini che vivono in territori in condizioni meno critiche. E così alcune delle risposte che dà il Premier Conte a Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Chi ora rifiuta le tre fasce ci porta a sbattere, è stato infatti il titolo scelto per questa intervista. Sul Corriere della Sera c'è anche nella pagina dei commenti però, diciamo un però di Roberto Gressi, inizia in prima pagina ma prosegue poi appunto a pagina 40, i numeri che bisogna chiarire, scrive Gressi. E molti contestano che l'RT, l'indice di diffusione del virus, non sia aggiornato, non consideri i progressi fatti, che a fronte di contagi parimenti dilaganti si adottino decisioni contraddittorie, che la disponibilità di posti letto non sia correttamente valutata, che ai bassi numeri della Calabria corrispondano il massimo delle restrizioni, che in realtà confinanti abbiano trattamenti opposti, fino a insinuare che ragioni politiche più che scientifiche abbiano guidato le scelte. Queste sono alcune appunto delle ipotesi che sentiamo tutti noi fare. Ebbene, scrive Gressi, insomma, c'è necessità di rispondere a tutte queste domande. Ci sono tanti modi, scrive, per non essere trasparenti. Ignoriamo quelli truffaldini che durante una pandemia sarebbero criminali. Nessuna nostalgia dei bollettini quotidiani di morte della prima ondata, ma un altro modo per non essere chiari, anche innocentemente, è quello di inondare gli italiani di informazioni. Gli scienziati hanno individuato 21 criteri per catalogare l'aggressività del virus, molti estremamente tecnici e comprensibili, specie nella loro concatenazione solo agli esperti. Massima fiducia in loro, ma davvero non è possibile offrire, nel momento della decisione e della divulgazione, una spiegazione non banale, ma accessibile, netta, incontestabile, il più possibile aggiornata? Se la risposta è no, sarebbe obbligatorio tornare allora a misure uguali per tutti, perché se l'unità del paese si sgretola, questa battaglia non la vinciamo. Così Roberto Gressi sul Corriere della Sera, il suo appello alla trasparenza e facilità di lettura. La Stampa a tutta pagina scrive: Biden vince, Trump non si arrende, Demi in vantaggio nei 5 stati chiave, il candidato democratico scrive il discorso della vittoria, studia la futura squadra di governo. Commenta Gianni Riotta: l'America e le ferite da curare. Poi ci sono diverse analisi, oltre alla cronaca di Paolo Mastrolilli e Francesco Semprini, ci sono diverse analisi, dicevo, di Alan Friedman. Per noi è finito il lungo incubo, scrive da statunitense, e poi di Rula Gebreal: le donne votano il cambiamento, perché molte donne e le minoranze pare abbiano appunto guidato quella che sembra ormai essere la vittoria di Joe Biden e quindi la sua futura presidenza. Per quel che riguarda la pandemia, c'è un'intervista all'ex ministro della Sanità Orlando e Covid, altre 4 regioni a rischio, ecco i ristori, e molti appunto oggi scrivono dei ristori. Andiamo ad Avvenire, così sovverto un po' l'ordine di lettura solito di questa rassegna stampa. Per un pugno di voti, questo è il titolo di apertura e quindi parliamo di Stati Uniti, Biden sulla soglia della Casa Bianca, annuncio nella notte. In Georgia si riconteggiano le schede, Trump non molla, parla ancora di brogli, elezioni rubate, ma i grandi network lo smentiscono. Ed è il primo titolo che vediamo parlare di questo. Ieri, durante il discorso di Trump, alcune televisioni degli Stati Uniti hanno così censurato proprio il discorso, nel quale Trump parlava di brogli perché non sostenuto da prove. Altri, come la CNN, hanno messo un sottopancia in cui appunto dicevano parla di brogli ma non ci sono prove addotte per il momento. Rapito e rilasciato il cardinale Toomey, qui parliamo di Camerun, siamo su Avvenire, e ne scrive Fraschini Coffi. Ed è l'unico a dare notizia di questo rapimento e rilascio del cardinale Toomey in una prima pagina di oggi. per quel che riguarda l'emergenza, la curva ancora non si abbassa, la curva del contagio da Covid-19, la bozza del decreto da 2,5 miliardi prevede congedi per le famiglie, primo giorno di blocco per le zone rosse. Ci fermiamo un attimo per la viabilità, a tra poco. In primo piano. Ancora una buona giornata, andiamo a vedere Quotidiano Nazionale, apre con Arriva Joe, è una fotografia di Joe Biden, guerra all'ultima scheda, Biden parla già da presidente eletto, Trump però non molla, ricorsi a raffica per annullare i voti. Questa è la notizia di apertura, però è sovrastata dal titolo Chiusi in casa, ma frontiere aperte. Altro che zona rossa, basta un tampone, l'autocertificazione per entrare in Italia da molti paesi, compresa la Francia che è in lockdown. Ancora contagi in aumento e oltre 400 morti in 24 ore. Braccio di ferro tra governatori e governo su eventuali nuovi limiti. E quella dell'apertura delle frontiere è sicuramente una questione da tenere d'occhio, uno degli strumenti con i quali in Oriente molti paesi hanno controllato la situazione è stata quella di chiudere le frontiere davanti all'epidemia per un periodo di tempo limitato. L'Unione Europea ha regole precise, diverse, quindi insomma non è facile chiudere definitivamente, decisamente, però va valutato. Dalla prima del Quotidiano Nazionale ricordo anche commento di Bruno Vespa, alle regioni piace il federalismo senza coraggio, alla vigilia delle elezioni politiche del 2001 Massimo D'Alema, che ne attribuisce la responsabilità a Rutelli e Veltroni, patrocinò la modifica del titolo quinto della Costituzione. La ragione? Sedurre la Lega, che lo stesso D'Alema aveva definito costola della sinistra, e togliere voti al centrodestra. Berlusconi stravinse ugualmente, ma intanto, con soli 3 voti di maggioranza, alle regioni furono attribuiti poteri immensi, che stanno portando alla disastrosa situazione di oggi. Si intenda, il Veneto ha fatto un uso eccellente dell'autonomia nella sanità e Zaia la vorrebbe estesa alla scuola e ad altro. Ma l'Italia è lunga e pasticciata e ha ragione Renzi a rivendicare la clausola di un referendum che perse perché volle che si votasse sul bambino e l'acqua sporca. L'acqua sporca era una pessima riforma del Senato. Il bambino, un monocameralismo di fatto e una revisione del titolo quinto con una clausola di supremazia del governo sulle regioni a tutela dell'interesse nazionale. Si sta ripetendo quello che accadde in marzo quando fu ritardata la chiusura di Nembro e Alzano perché governo e regione Lombardia speravano che la decisione fosse assunta dall'altro, pronti a rinfacciargliela. In realtà, anche nella Costituzione vigente, c'è un comma dell'articolo 120 che prevede i poteri sostitutivi dello Stato in campo di sicurezza pubblica e di tutela dei servizi essenziali delle prestazioni. Messo alle strette, il governo potrebbe invocarla. In Germania, i 16 Länder e via via. Così Bruno Vespa che mette sotto inchiesta i poteri dell'uno e dell'altro. E a questo proposito vi leggo perlomeno l'incipit di questo articolo che troviamo sul Secolo XIX, quindi ci spostiamo in Liguria. Liguria, record di ricoveri, più vicino alla zona arancione, così titola il Secolo XIX. E ricorda che il governatore Toti, eccolo qua, valuta l'evenienza con realismo. I presidi sanitari sono sotto pressione, i nuovi limiti non sarebbero un dramma. E allora, visto che ne ha il potere, però appunto a proposito di possibilità delle regioni di agire, beh, potrebbe intervenire lo stesso Toti e non temporeggiare, e temporeggiando si peggiorano le cose in questo caso. Andiamo al Messaggero, scuola, 1000 euro per i figli a casa, in arrivo nuovi aiuti ai genitori che non possono mandare i bimbi in classe nelle zone rosse. Il TAR di Bari riapre elementari e medie, il picco di ieri, oltre 37.000 positivi, 446 vittime. C'è poi la foto, come in quasi tutti i quotidiani, di Donald Trump. Trump e il canto del cigno, censurato in diretta TV. La conferenza stampa di Donald Trump nello schermo in diretta della MSNBC, che ha tagliato l'intervista del presidente. Altri invece, come vi dicevo, hanno preferito un sottopancia che ricordava che mancano le prove, la pistola fumante dei brogli. La verità, indagati Renzi e il giglio magico, il nodo dei finanziamenti incassati e distribuiti dalla Fondazione Open, si stringe attorno alla cerchia dell'ex premier per tutti l'accusa di finanziamento illecito, un brutto inciampo in vista delle ambizioni del senatore che, scrive ancora La Verità, punta a fare segretario generale della NATO. E questa è l'apertura scelta da La Verità. Sotto vediamo una fotografia di Joe Biden che si avvia ad essere il primo presidente non riconosciuto, scrive La Verità, e poi dopo discute di questo. Il Manifesto, la fotografia di Biden e della sua futura vice Harris, fuga per la vittoria, a un passo dal risultato in Georgia e Pennsylvania, Biden corre verso l'investitura, 46esimo presidente degli Stati Uniti, la protezione dei servizi sembra confermarlo, la democrazia americana è minata però da Trump, sostiene il Manifesto, barricato alla Casa Bianca, accusa i Dem di brogli e complotti, non concede la vittoria all'avversario, viene censurato dai media nazionali. Altro tema sulla prima del Manifesto, l'epidemia, Covid, tregua, governo, regioni. Titolo almeno legge la questione in direzione opposta rispetto ad altri. Su Libero, italiani sull'orlo di una crisi di nervi, proteste a Bergamo, tassisti in sciopero, assembramenti alle fermate dei bus e ora da Roma minacciano di cambiare ancora i colori alle regioni. Una follia, sostiene Libero. Centropagina, la fotografia del ministro Speranza, definito il ministro che calpesta la speranza, ed è sindaco di Napoli, De Magistris, i dati della campagna sono falsati, dice. Siamo al collasso, ma De Luca che fa? Abbiamo il Foglio, a tutta pagina, il dopo Trump e tutti i pozzi avvelenati in 4 anni di dibattito pubblico intossicato, lezioni per il mondo dal rigetto americano, ne scrive il direttore Cerasa. E poi un altro titolo che vediamo su 4 colonne, Biden e la fine di un incubo grottesco. Così giudica il Foglio questi 4 anni di trumpismo, una posizione ben nota del quotidiano, che poi viene declinata da Giuliano Ferrara e Daniele Raineri. Andiamo al Fatto Quotidiano, perché poi vorrei rapidamente tornare sul Sole 24 Ore, la questione generali. Il Fatto Quotidiano, Speranza, possibili nuove zone rosse. La classifica delle province più contagiate, ieri 446 morti, tutte scelte condivise, assurdo che le regioni protestino solo adesso, dice Domenico Arcuri. Pagine 2 e 3 sono dedicate a questo tema e il colloquio con Speranza e l'intervista appunto ad Arcuri. Sul Giornale, virus da pazzi. Farsa in Puglia, un giudice apre le scuole, un altro le chiude, decreto ristori, arriva l'elemosina, il governo ammette senza tasse niente soldi per gli aiuti. E poi c'è lo sfogo dell'ex governatore Maroni, assolto ieri, certi PM cecchini della politica, chi paga per 6 anni di bugie, si chiede Maroni, intervistato poi dal Giornale. Sul Sole 24 Ore, vi dicevo, volevo rapidamente tornare 30 secondi giusto per leggervi qualche passaggio. Copasir, le generali restino italiane, la presenza francese crescente in finanza, questo è in generale un problema. Il Copasir considera una sciagura l'eventuale acquisizione di generali da parte di AXA, incluso il tema dei dati personali sensibili come quelli sulla salute o sulla situazione reddituale e patrimoniale dei sottoscrittori di polizze, quelli di cittadini italiani potrebbero essere trasferiti, trattati e conservati su database e server collocati al di fuori del territorio italiano. Inoltre l'aumento di capitale di Delfin in Mediobanca potrebbe modificarne l'assetto societario, con conseguenze per il nostro principale istituto di assicurazioni generali. Per leggere il tutto, il Sole 24 Ore di oggi, noi ci dobbiamo fermare, c'è GR24, ci ritroviamo con Si può fare alle 8:30.